di 4000 baci. Oggi saprai perché l'amore vuole un istante di 1000 baci, 1000 carezze vuole allora, con 24000 baci, felici corrono le ore di un giorno splendido perché ogni secondo bacio a te. Niente bugie meravigliose, frasi d'amore appassionate, ma solo baci chiedo a te. Baci, così frenetico l'amore, in questo giorno di follia, ogni minuto è tutto mio. Niente bugie meravigliose, frasi d'amore appassionate, ma solo baci chiedo a te.